la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino qui dagli studi di Milano, 16.35, 13 secondi in questo martedì 14 di gennaio 2014. Vengo subito al punto perché se qualcuno di voi ha voglia di chiamare 800 24 00 24 per dirci come la pensa, e la domanda è molto semplice: dite come la pensate su una delle dichiarazioni che utilizziamo per lanciare il tema della puntata di oggi, rilasciata ieri da John Elkann, il presidente della Fiat, che ha detto dalla fiera dell'auto di Detroit, dove si è fatto il punto con la stampa insieme a Marchionne dei programmi futuri una volta che la Fiat è riuscita nell'acquisizione totale di Chrysler, e John Elkann ieri ha detto: in 10 anni di impegno non abbiamo chiesto nulla all'Italia, non abbiamo chiesto nulla all'Italia, dice il presidente della Fiat. Voi cosa pensate di questa frase? È veramente così? Non conta nulla quello che nei 100 anni precedenti le politiche pubbliche italiane, con qualunque regime ci sia stato, ai tempi della monarchia, sotto il fascismo, sotto la Repubblica, hanno fatto per impedire, che errore colossale dal mio punto di vista, che in Italia ci fossero produttori alternativi alla Fiat, che veniva tutelata, sussidiata, incentivata, eccetera eccetera. Non conta nulla. In questi 10 anni davvero è andata così? Non hanno chiesto niente all'Italia? Sono il partner ideale della politica industriale, della politica dei sindacati italiani? Non lo so. Io vi lancio questa domanda, sperando che qualcuno di voi ci dica come la pensa. Ripeto, questo non è un giudizio sulla felicità per l'operazione Chrysler, l'orizzonte mondiale che c'è adesso di fronte Fiat, che nel 2004-2009 era in pre-default. La domanda è sul tipo di relazioni che ha avuto in questi ultimi anni con l'Italia, un'azienda la cui intera storia si sintetizza nel fatto che hanno sbagliato spesso gli azionisti, spesso è andata in ginocchio, ma certo il paese ha dato troppo, secondo me, perché è sempre sbagliato fare così con le aziende. Per tutelarle, la politica industriale migliore per me è creare migliori ipotesi per la concorrenza, come hanno fatto tutti i grandi paesi europei quando i marchi nazionali non si reggevano in piedi, hanno spalancato le porte ad altri produttori, e questo è il motivo per cui in Italia noi produciamo 340.000 auto, mentre la Spagna che è in ginocchio, la Spagna ne produce 2,5 milioni, avendo spalancato la porta agli stranieri. La Gran Bretagna idem, ai tempi della Thatcher, solo in Gran Bretagna la sola Toyota, lasciamo perdere tutte le altre case straniere, ne mette insieme più di 2 milioni solo in Gran Bretagna. Per fare il punto però della complessiva vicenda a questo punto e di che cosa aspettarci, abbiamo un ospite particolare, perché diciamo si è occupato per molti anni in una veste professionale diversa da quella di che ha oggi, ma si è occupato proprio delle relazioni con Fiat Auto. Era responsabile di Fiat Auto della FIOM, un torinese che conosce l'azienda da decenni, oggi è in Parlamento, è un deputato di SEL ed è Giorgio Airaudo. Sono felice di averlo qui con noi, grazie onorevole Airaudo. Grazie a lei, Giannino. Posso chiederle che cosa pensa innanzitutto di questa dichiarazione del CAN? In 10 anni di impegno non abbiamo chiesto nulla all'Italia? Ma mi sembra una dichiarazione presuntuosa, non veritiera, perché sono arrivati comunque dei contributi anche a varie società del gruppo Fiat anche questi anni, contributi leciti e legittimi per attività, impegni industriali. Penso agli investimenti fatti dalla regione Piemonte per rafforzare la produzione dei cambi a Cavaglià vicino a Biella, per fare un esempio, su cui dovevano esserci alcune centinaia di assunti che poi sono stati gelati dalla crisi. Quindi tanto non è così veritiera, mi sembra un mantra, mi sembra che John Elkann abbia ripetuto uno dei mantra di Sergio Marchionne, che sono i mantra con cui Marchionne ha un po' annichilito la politica e i governi di questo paese. Quindi credo che sia una frase non vera, un po' leggera e un po' banalotta. Posso farle una riflessione su questa distinzione di temi, per così dire, di responsabilità? Io ho sempre ragionato così, mi dica dov'è il mio errore e se lei la pensa diversamente. Un conto sono gli azionisti. Gli azionisti, il CAN è arrivato negli ultimi anni, ha trovato un'azienda che era in ginocchio, però rappresentano una linea di continuità assoluta nella storia dell'azienda. Agli azionisti io chiedo e mi aspetto che siano consapevoli di quello che questo paese, secondo me è sbagliato, ma di fatto gli ha dato per il secolo precedente. Cosa diversa è il manager pro tempore chiamato da Umberto Agnelli con una Fiat che era in ginocchio e che riesce in questa specie di miracolo impensabile di unire la crisi Fiat alla crisi Chrysler e di dargli un orizzonte mondiale. È sbagliato considerare che gli azionisti, più del manager Marchionne, che invece muscolarmente è stato quello che, come ha detto lei, ha impresso tutto questo, no, questo sbattimento di muscoli a cui non si era abituati, ma non bisognerebbe chiedere innanzitutto agli azionisti di essere più consapevoli? Ma guarda, gli azionisti sono stati grandi assenti in questo decennio delle due Fiatzone, quella italiana e quella americana. Sono stati grandi assenti. Io spesso ho avuto la sensazione che anche una certa capacità di comunicazione di Marchionne venisse molto esagerata e molto esaltata, quasi per far scomparire l'azionista famiglia Agnelli e il suo rappresentante John Elkann. Credo che non ci sia stato un amministratore delegato che abbia avuto questa visibilità. Ah no, questo nella storia della Fiat mai, ma quando mai Romiti, esatto, si sarebbe permesso? No, ma non solo Romiti, ma guardi, nei momenti cruciali gli Agnelli si piccavano di metterci la faccia, certo. Insomma, sono famose le interviste dei due fratelli nei momenti topici nel rapporto tra questa azienda e il paese. Invece in questi anni loro si sono nascosti e adesso ricompaiono negli Stati Uniti. Ha problema risolto per così. Negli Stati Uniti ha problema risolto per loro. Sì, beh, cioè, questo sì, per loro. Risolto per gli azionisti, perché invece i problemi sono tutti consegnati al paese, ai lavoratori. Cominciamo nell'esame italiano di quello che secondo lei ci aspetta a questo punto, da un punto che ci ha visto uniti negli ultimi anni. Airaudo, c'è anche Massimo Mucchetti, un po' più dubbioso, non tanti altri, insieme a me a un certo punto abbiamo pensato, ammaestrati dal fatto che continuavamo a tenere le porte chiuse ad altri produttori, e questo significava mettere sempre più in ginocchio l'automotive italiana in quanto settore di produzione in Italia, non solo delle auto ma di tutto ciò che c'è intorno, abbiamo iniziato a pensare e a dire a Airaudo, beh, forse su Alfa Romeo, visto che siamo a quattro volte che ci annunciano piani che non vengono implementati, perché non si vede niente, forse sarebbe il caso di intavolare un discorso serio con gli azionisti Fiat e dire, ma perché non prendete Alfa Romeo e la date a Volkswagen, perché questo consenta a quel marchio di avere un futuro di qualità e poi consenta al paese di avere in Italia una produzione alternativa, quindi rafforzando il sistema paese nell'auto con concorrenti. Abbiamo avuto torto secondo lei? Lei crede a questo ennesimo rilancio che adesso Marchionne ha presentato da Detroit dicendo 8 modelli, mettiamo insieme motori Ferrari, ci crede? Guardi, questo è il fallimento di Marchionne, cioè Marchionne ha sicuramente fallito sull'Alfa Romeo. In tutti i piani lui prometteva 300.000 vetture a Alfa e non sono mai arrivate. Non sono mai arrivate, poi la crisi globale l'ha aiutato, diciamo, a nascondere questo suo fallimento un po' sotto il tappeto della crisi. Che a lui servisse il marchio Alfa per fare matrimonio con la Chrysler non c'è dubbio, perché i marchi di penetrazione internazionale di questa nuova società sono Jeep e Alfa Romeo. Fiat fuori dall'Europa non la conosce quasi nessuno, come pochi di noi conoscerebbero un marchio come Ram, per capirci, che è un marchio importante della Chrysler. Io penso che abbiamo perso un'occasione per rafforzare la produzione delle automobili in Italia. Paradossalmente credo che l'unico governo che abbia provato a sollevare il problema sia stato il governo Monti, in quell'incontro che fece con Marchionne ed Elkann, e da quel che mi risulta a me, fonte di uno dei ministri presenti a quell'incontro, la proprietà non era ostile, fu il manager. Volevo fare questa precisa domanda, perché quando alla domanda gli è venuta dalla stampa a Detroit Marchionne, così è stato riferito l'Alfa a Romeo, ha detto, lui ha detto su Alfa Romeo, finché ci sono io in Italia, molti colleghi, io per prima, hanno pensato esattamente a quello che lei ci sta dicendo, che in realtà la proprietà di fronte all'interesse Volkswagen la pensasse diversamente la Marchionne. Lei ci dice che è così? Ma io così ho saputo, diciamo. Credo che l'unico governo che abbia chiesto alla Fiat se non ritenevano, viste le difficoltà del mercato, vista l'assenza di investimenti nel nostro paese, non dimentichiamo che i 20 miliardi e il famoso 1.400.000 vetture che Marchionne avrebbe già dovuto spendere e produrre nel nostro paese, non sono mai arrivati e la crisi era già iniziata. Lui non poteva dichiararsi sorpreso, quindi ci ha un po', si è un po' inventato quella soluzione, e credo che da quel che risulta a me il governo Monti pose il problema, perché l'interessamento di Volkswagen c'era e c'era anche la disponibilità, lo scrisse il Corriere della Sera, a mantenere la produzione in Italia. Mentre oggi abbiamo la promessa che questa produzione resterà fin quando c'è lui, fin quando c'è lui non sappiamo quant'è, forse il 2017 da quello che ci hanno detto ieri a Detroit. Tutti gli annunci importanti ormai avvengono a Detroit, che è però, ma questo ormai è gioco forza, perché la vera forza, il vero margine, eccetera. Dopodiché la mia opinione è che a questo punto la vera sfida per Chrysler, Fiat, li metto in ordine di importanza, dico prima Chrysler e Fiat, è quella mondiale, per recuperare il gap terrificante che hanno in Cina rispetto a Toyota e General Motors. Io mi aspetto a questo punto che nell'IPO, cioè nell'offerta pubblica di acquisto, nella quotazione che dovrebbe essere pronta entro questo fine anno, al massimo il 2015, e che si fa naturalmente a New York, del gruppo, lì entri anche un produttore asiatico per consentire di recuperare quel gap, perché altrimenti quel gap da 100.000 che loro vendono scarsi in Cina ai 3 milioni e oltre che vende General Motors, non riesco a capire come possono farlo. Però la sfida è quella. Adesso noi abbiamo un minuto di informazione stradale, poi torniamo con Giorgio Airaudo, abbiamo anche telefonate vostre da girare poi a onorevole Airaudo. Il tema è Fiat, credere o non credere. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta, 16:46 e 55 secondi. Abbiamo con noi Giorgio Airaudo, deputato di Sellogi, per anni, molti anni, responsabile auto di Fiom, torinese, che dal di dentro conosce tutte le evoluzioni del rapporto muscolare, molto muscolare, che Marchionne ha avuto con il nostro paese. E vi abbiamo chiesto cosa pensate delle dichiarazioni di Ariel Khan, del presidente della Fiat, che dice: in 10 anni di impegno non abbiamo chiesto nulla all'Italia, siamo stati il partner ideale di un paese che non ci ha ripagato con altrettanto fairness, con altrettanto equilibrio nei nostri confronti. Sentiamo come la pensa Marco da Milano su questo. Marco, prego. Buongiorno, io sono un operaio di 28 anni e vivo nella provincia di Milano, operaio metalmeccanico. Sì. Io sono d'accordo col discorso della Fiat che vale in America. Secondo me è giusto, perché noi viviamo in un paese dove lo Stato ti rema contro se è un'industria. Perché tu dovresti investire in uno Stato dove ti rubano l'anima, anche se tu sei una grande azienda, anche se l'Italia ha dato tanto alla Fiat, ma ha sbagliato lo Stato, non è che ha sbagliato la Fiat a chiedere i finanziamenti. No, ma non mi devi convincere di questo, Marco, che lo Stato, per come la penso io. Il problema è che, Marco, loro non dicono che se ne vanno, loro da anni dicono che sono qua, che è tutto aperto, che rilanciano. Allora io. Ma loro vorrebbero, Marchionne ha detto che se lo Stato gli dasse delle i sindacati, lo Stato gli desse dei presupposti. Sì. Per poter investire, per poter fare lavoro, loro rimarranno in Italia. Marco, però il contratto aziendale, quello è noto, quello la maggioranza dei sindacati gliel'ha dato, ha votato sì. Però, ma allora, sai cosa chiedo? Beh. Io sono un operaio metalmeccanico. Sì, quelli della Fiat, confronto a me, sono dei principi. Ah, questo sì. Io non ho niente, credo. Loro chiedono sempre di più. Bisognerebbe essere più umili. Siamo in crisi, un operaio dovrebbe fare l'operaio. Chiarissimo, Marco. Sentiamo Giorgio Airaudo. Posso garantire a Giorgio Airaudo che Marco è un operaio di 28 anni, non ce lo siamo inventati noi. Che pensi? No, ma io penso intanto che bisogna ricordare che Marchionne è andato a prendere la Chrysler perché un presidente americano gliele ha offerta soldi dei contribuenti americani. 7 miliardi e mezzo dei contribuenti americani. Che ha restituito con tassi di interesse al governo americano e canadese dal 9% all'11%. Com'è? Dopo 3 anni. Io penso che per esempio in quel periodo lì è stata persa un'occasione in questo paese. Penso che la classe dirigente di questo paese, chi governava, poteva dire alla Fiat, sarebbe stata una novità, se avete bisogno di qualcosa anche temporaneamente ce li restituite come in America, ma in cambio ci dite che investimenti fate, quanti soldi ci mettete voi, quanti posti di lavoro credete di poter preservare, e se non siete in grado di sfruttare tutti i marchi. Però è questo, ok. Però Marco dice che i lavoratori Fiat, che rispetto a noi nelle piccole aziende non sono molto meglio tutelati, chiedono troppo. Questo è il punto. Ma guardi, un operaio della Fiat dopo 25 anni di anzianità nella nostra Torino guadagna 1.250 euro al mese facendo i due turni. Non mi sembra che sia un gran salario, detto tra di noi. Peraltro in questi anni di crisi hanno pure avuto il taglio del premio aziendale e facendo la cassa integrazione sono sotto i 1.000 euro. Ok, quindi dice non è questo il punto. Sentiamo Maurizio da Brescia. Prego Maurizio. Buonasera a tutti. Buonasera. Sulla frase detta da Erkan, credo che lui stia facendo un discorso molto sul presente, sì. Perché in realtà credo che Fiat, se parliamo di 10 anni fa, avesse poche idee confuse, prima di tutto perché Fiat aveva venduto l'auto, poi per fortuna o per sfortuna General Motors non ha confermato l'impegno preso, perché sennò Erkan voleva dire che 10 anni fa non voleva l'auto e oggi invece dicono che l'hanno voluta. Non è vero, avevano venduto l'auto, si sono presi $1.5 miliardi perché General Motors non aveva confermato il patto d'acquisto. Questa è la storia. Sì, sì, come no. È importantissima. Gli aiuti arrivano anche tramite le rottamazioni, Sono arrivati per molti anni. Quando lei dice stava un ragionamento sul presente, è ragionamento del cambale da quando non ci sono più, diciamo, i contributi pubblici alla rottamazione, sì, che per anni hanno drogato il mercato. Sì, ma non ci sono stati, ci sono stati negli ultimi 10 anni, fino a qualche anno fa, già la data non è giusta. Esatto. Ma è vero, io credo una cosa, io do fra virgolette una responsabilità agli Agnelli. Perché gli Agnelli sono poi di fatto l'azionista di maggioranza. Sì. È lui che decide, che dovrebbero decidere o accettare le strategie o decidere se investire o non investire. Marchionne è un grande manager, certamente, molto, si è trovato secondo me in una posizione molto, molto particolare. Ha fatto della situazione il meglio che poteva, perché ha fatto un ottimo contratto. Con General Motors, diciamo che è un ottimizzatore. Io adesso la devo interrompere. È un ottimizzatore, ed è bravo nelle trattative. Diciamo un ottimizzatore anche finanziario. Non è un car guy, cioè non è un uomo di auto. Questo si è sempre visto. Del resto, forse alla Fiat serviva questo per sopravvivere. Un ottimizzatore finanziario è uno muscolare nel dire cose un po' diverse da quelle che poi sono state fatte. Perché questo è un fatto oggettivo. Gli annunci non mantenuti, ripeto. Io che stavo per le aziende e per la concorrenza, Airaudio avete appena sentito, era dell'idea che lo Stato dovesse mettere soldi pubblici, però non è che neghiamo, pensando diversamente, fatto oggettivo, tanti annunci mai visti. Le relazioni industriali Fiat le ha cambiate, ha avuto la maggioranza dei sindacati che gli hanno votato sì e i lavoratori che hanno votato sì, è servito a metterla tutto sul giudiziale? Io penso di no, negli interessi stessi della Fiat, e non è servito sicuramente a espandere la contrattazione decentrata. Io sono per la contrattazione decentrata, secondo me quello che è successo in Fiat non ha affatto aiutato questo tipo di evoluzione nel mercato italiano. In conclusione, Airaudio, neanche questo governo però è riuscito a fare qualcosa, no? Ma questo governo secondo me è totalmente assente da questo tema. Cioè, se c'era un momento in cui bisognava chiedere agli Agnelli e all'amministratore delegato della Fiat che cosa faceva in Italia, è il momento in cui lui prende il 100% di Chrysler, annuncia la totale fusione delle due società, il trasferimento del quartier generale, che può anche non essere un aspetto rilevante, alla condizione che qualcuno chieda quello che è stato dato ad Obama. Ad Obama è stato dato un piano di 250 pagine per il rilancio dell'auto americana e della Chrysler in particolare, e qua ci saremmo accontentati almeno di un quinterno, di un vecchio quinterno di impegni che si fanno e si mantengono, e invece il governo sta alla finestra e aspetta. Cioè, ormai il rapporto è tra un'azienda straniera e un paese che la ospita. Questo è secondo me il punto. Cioè, io sarei per la realistica presa d'atto che ormai, siccome il più dei margini del mercato è mondiale negli Stati Uniti eccetera eccetera, però a questo punto perché non tentare l'impossibile malgrado le alte tasse e far venire qualche concorrente straniero a produrre qua? Ma io penso che il governo dovrebbe farlo, io penso che dovrebbe andare in cerca. Ci sono alcuni produttori, soprattutto asiatici, come lei sa, che guardano alla possibilità di mettere naso in Europa. Noi abbiamo capacità produttiva installata che non utilizziamo, abbiamo stabilimenti Fiat che verranno dismessi nei prossimi mesi e che sono stati tenuti in funzione, come quello di Termini Imerese, come quello dell'Irisbus a Valle Ufita in Campania, ma insomma capacità produttiva ce n'è, tant'è che qualche produttore è arrivato, è europeo, chissà, insomma, chissà, chissà, Lamborghini l'ha presa. Secondo me questa sarebbe la vera strategia, non più fare braccio di ferro. Ma poi le chiedo un'ultima cosa, come mai, anche se lei fa un altro mestiere, come mai Fiom ha riaperto le ostilità con CGIL sulla rappresentanza rispetto all'accordo interconfederale del maggio? Credo che da quel che capisco e da quel che intuisco e che so riguarda il tema delle sanzioni. Nell'accordo che è stato fatto con Confindustria si prevede un sistema sanzionatorio, sì, per nel caso di contratti firmati dalla maggioranza dei sindacati, per chi non li rispetta, con un automatismo, sì, un automatismo, sì, non certo sul diritto di voto dei lavoratori. Ma CGIL ricordo... però l'aveva firmato, mentre non aveva firmato quella di due anni prima. Adesso invece... Lo so, credo che quindi questa sia la ragione di una certa tensione, cioè credo che il segretario della CGIL e il segretario della FIOM non si siano parlati prima. Ecco, speriamo, no, perché tornare di nuovo allo scontro anche sindacale con i guai che ci sono nel nostro paese mi sembra eccessivo. Come vedete, le opinioni sono molto aperte sul fatto che davvero credere all'ennesimo piano alfa, davvero dire sì, è vero, siete stati molto corretti e avete fatto quello che avete detto, anche da opinioni diverse, chi per il mercato come me, chi è più per lo Stato quando le imprese vanno in difficoltà, ma non credo che 100 anni di aiuto alla FIAT sia giusto dimenticarseli. Continuate con Radio 24, grazie a Giorgio Eraudo, appuntamento con me a domani.